Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata in compagnia di, signore e signori, Federico Rampini, scrittore, giornalista e corrispondente di Repubblica da New York, che capita proprio a fagiolo nella settimana in cui l'America ha scelto per la seconda volta come presidente Barack Obama. Quante dunque le cose da commentare anche in questi giorni. Non perdetevi quindi per nessuna ragione, non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.